Letture di Radio 24. Dal 5 aprile a Roma, una mostra promossa dalla Banca d'Italia ripercorrerà le tappe che portarono l'Italia a unificare il sistema monetario nazionale in una sola valuta. Prima dell'unità c'erano quasi 300 tipi di monete e la gente non voleva saperne delle banconote. Baiocco, Carantano, Carlino, Doppia, Ducato, Fiorino, Franceschino. Ma anche Francescone, Lirazza, Marengo, Unza, Paolo, Papetto, Piastra, Quattrino, Scudo. Eppure Soldo, Svanzica, Tallero, Testone, fino agli zecchini che Pinocchio, su consiglio del gatto e della volpe, sotterrò nel campo dei miracoli al paese dei Barbagianni. Prima dell'unità in Italia c'era infatti una vera e propria Babele monetaria. 6 diversi sistemi e ben 236 diverse monete metalliche che diventano addirittura 282 se si aggiungono quelle delle province venete e romane al momento del loro ingresso nel regno. Finché il 24 agosto 1862 Vittorio Emanuele II firmò la legge che unificava il sistema monetario e allora nacque la cara vecchia lira, il monumento più popolare, più costante e più universale che rappresenti l'unità della nazione, come si legge nella relazione al provvedimento. È un cammino faticoso quello che accompagna la nascita della moneta italiana. Una mostra a racconto promossa dalla Banca d'Italia sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica ne ripercorre le tappe attraverso immagini e documenti d'archivio, grandi collezioni e perfino installazioni multimediali con tanto di isole tematiche. All'interno, macchine industriali e oggetti d'uso comune, libri antichi e rare monete d'epoca, d'oro, d'argento, bimetalliche. Ma soprattutto le banconote dei nostri antenati. Dalle primissime, quelle col faccione di Cavour al centro stampate dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, fino a quelle da una lira con al centro l'Italia turrita. La moneta dell'Italia unita, così si intitola l'esposizione, dalla lira all'euro, è il sottotitolo, perché quella europea è la seconda grande unificazione monetaria che accompagna la nostra vita insieme a 300 milioni di cittadini dalla notte di Capodanno del 2002, passato remoto e presente immediato. In mezzo niente, salvo qualche accenno qua e là per meglio leggere la transizione. Si saltano le Amlire, per esempio, banconote made in USA che circolavano inizialmente nel Sud liberato e poi dappertutto, segno mortificante della sconfitta. Così come non ci saranno gli odiatissimi mini assegni, simbolo tangibile dell'inflazione intorno alla metà degli anni 70. Non si vedranno neppure i biglietti da 5.000 tutti verdolini, che 30 anni fa ospitavano l'immagine di Colombo con le sue caravelle, ma nel tempo hanno cambiato più volte pelle, rimpicciolendosi, allungandosi, stilizzandosi. Ci sarà invece un esemplare da 500.000 lire, l'ultimo stampato prima dell'euro, quello azzurrino col busto di Raffaello e dietro un particolare della scuola di Atene. Per rafforzare il nesso che unisce il Risorgimento all'Europa, la mostra si ferma al circolante dell'Italia unita e a tutti i problemi che i governanti di allora hanno dovuto affrontare. Basti pensare che alla vigilia dell'unità esistevano ben 9 banche che emettevano i biglietti, poi si ridussero a 6. L'esperienza del pluralismo insediato per evitare contrasti politici tra i diversi gruppi regionali si rivelò fallimentare. Fu tra le cause dei dissesti bancari che portarono alla riforma del 1893-94, da cui nacque la Banca d'Italia. Quanto faticarono i biglietti a impiantarsi in un'Italia che all'epoca era ancora analfabeta, diffidente e resistente al cartaceo. Una cartina elettronica dello stivale, se toccata, svela che nel 1861 il 78% non sapeva né leggere né scrivere e che al sud la percentuale arrivava al 90%. La speranza di vita alla nascita era di 30 anni, una delle più basse in Europa, e i cittadini, prevalentemente contadini, quando riuscivano ad avere un po' di denaro, lo pretendevano metallico e sonante. Il biglietto cartaceo veniva considerato addirittura ripugnante, come scriveva Verga nelle Novelle rusticane. Ogni volta che Mazzarò vendeva il vino, ci voleva più di un giorno per contare il denaro, tutto di 12 tarì d'argento, perché lui non ne voleva di carta sudicia per la sua roba. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Elena Polidori, L'unità d'Italia fatta dalla moneta, pubblicato da Repubblica del 21 marzo. Letture di Radio 24. Sole 24 Ore ha lanciato un'indagine sul fattore crescita in Italia. Fabrizio Galimberti, autore della prima puntata, sostiene che perché l'Italia non cresce è la sola domanda giusta da farsi, perché dalla crescita dipende il futuro dell'Italia. Senza di lei tutto si aggrava. Giudica un uomo dalle sue domande, piuttosto che dalle sue risposte, disse Voltaire. E oggi non c'è domanda più importante di questa. Perché l'Italia non cresce? Perché quando le cose vanno male da noi vanno peggio e quando vanno bene da noi vanno meno bene? Perché negli ultimi 40 anni siamo cresciuti meno delle altre aree del mondo, sia quelle lontane che quelle vicine? Perché questo divario di crescita si è ancora allargato negli ultimi anni? Non c'è domanda più importante, si è detto, ed è una domanda che dobbiamo porci insistentemente e ossessivamente, anche se non avessimo le risposte. Sbarazziamo dapprima il campo delle risposte sbagliate. Alcuni mettono la testa nella sabbia, o dicendo che le cifre non sono vere, o rifugiandosi in uno sterile moralismo economico. Noi siamo formiche e gli altri crescono di più perché spendono e spandono come cicale, quasi che un divario che dura da 40 anni possa essere spiegato in termini di mezze verità o mezze bugie. Né il divario può essere spiegato in termini di partigianeria politica. Quale che sia il colore del governo pro tempore, l'economia italiana ha continuato ad arrancare. No, ci sono ragioni profonde e strutturali che affondano le radici nell'humus della società, negli snodi e nelle giunture che presiedono al funzionamento del nostro sistema produttivo. Un sistema produttivo che, come giustamente celebrato da tanti laudatori delle nostre imprese, ci offre tanti esempi di successi e di primazie, tante nicchie di eccellenza, tante figure di duro e ostinato lavoro, tanti innovatori che si alzano con le allodole e si coricano con le civette. Perché allora questo celebrato materiale umano, questo sapere produttivo, questa lunga linfa che risale alle prodezze artigianali delle città-stato del Medioevo, non riesce a fare sistema, a innestare e soprattutto a mantenere nel tempo un processo autonomo di crescita? Un fare sistema che è tanto più necessario in questi anni, quando la concorrenza dei paesi low cost rende di tanto più importante la capacità di un paese di antica industrializzazione di competere nell'arena internazionale con un efficace connubio di pubblico e privato. Un primo indizio sta nell'osservare che un buon terreno non basta. L'humus può essere fertile e ricco, ma rimane vero che migliore è il terreno, più gramigna produce a non coltivarlo. E il coltivarlo non è solo compito degli imprenditori. Rimane compito precipuo dell'operatore pubblico. L'atmosfera culturale che deve respirare invece un'impresa italiana è ben esemplificata da una frase di Winston Churchill. Molti vedono l'impresa come una vacca da mungere, altri come un nemico da abbattere. Io la vedo per quello che è, un cavallo robusto che tira una carretta molto, molto pesante. Il ruolo dello Stato dovrebbe essere quello di lubrificare le ruote della carretta e spianare le strade che deve percorrere. Invece, molto spesso in Italia i governi, come accade in questi giorni con il caso Lactalis Parmalat, si preoccupano più di questioni nominalistiche di onore nazionale, come se il passaporto dei proprietari contasse di più di quelle bravure imprenditoriali e di quelle dotazioni infrastrutturali, che sole determinano le convenienze delle localizzazioni produttive. Il problema principale dell'economia italiana e della sua scarsa crescita sta insomma nei sospetti e nelle incapacità a collaborare che avvelenano i rapporti fra pubblico e privato. La politica economica non dovrebbe essere qualcosa che sradica una pianta, ma che la guida lentamente a crescere in una direzione diversa. Di quella guida, a parte le velleità di una politica industriale non degna di quel nome, non vi è traccia. E la politica in Italia è più una politique politicienne che si guarda l'ombelico che una politica alta preoccupata di creare le condizioni di base per il fiorire dell'intrapresa. Sì, ma, potrebbero obiettare alcuni, non è forse vero che in Italia l'intrapresa fiorisce con una creazione di imprese alta e continua? Ma è proprio questa prolifica natalità che sottolinea il contrasto fra la voglia sfrenata di fare e le soffocanti difficoltà del continuare. Confronti internazionali suggeriscono che la natalità delle imprese in Italia può essere alta come altrove, ma le imprese non devono solo nascere, devono crescere. E, per esempio, a parità di natalità, le imprese che rimangono dopo 5 o 10 anni sono meno e meno grandi che altrove. Piccolo è bello, ma nano non è bello. Non si può rimanere piccoli per sempre. Le imprese nascono, ma poi si ritrovano ad affrontare un ambiente ostile. O si rifugiano nel sommerso, o stentano a crescere. il ruolo principale dell'operatore pubblico è quello di creare due tipi di infrastrutture: una dotazione infrastrutturale fisica, che è specialmente importante in Italia, dove la conformazione orografica e le peculiarità idrogeologiche richiedono forti spese in opere pubbliche, e una infrastruttura regolatoria che si scrolli di dosso le tante incrostazioni borboniche che appesantiscono di adempimenti burocratici e fiscali la vita delle imprese. In Italia, la riforma della pubblica amministrazione è stata spesso avviata con grandi annunci, una riforma orizzontale che avrebbe bisogno, per produrre effetti, di una continuità amministrativa e di un pungolo politico che vengono negati dall'instabilità dei governi. Sarebbe più produttivo, invece, un approccio verticale volto a creare isole di eccellenza per particolari compiti, isole che possono poi agire da lievito per altre procedure. L'Italia tornerà a crescere? La missione non è impossibile, ma per deliberare bisogna conoscere. E il Sole 24 Ore continuerà nelle prossime settimane a cercare diagnosi e risposte a una domanda che è la più importante che possiamo porre. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Perché l'Italia non cresce?», a firma di Fabrizio Galimberti e pubblicato dal Sole 24 Ore del 24 marzo.